Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica. Con questa musica di Nino Rota dal film La strada di Fellini iniziamo l'incontro di oggi, La strada, perché parliamo con una persona che di strada ne fa fare tanta. Buongiorno a Marco Lazzoni. Buongiorno. Marco Lazzoni è amministratore delegato di Volvo Italia, controllata italiana del gruppo svedese Volvo. Di strada ne fa fare tanta con che cosa? Con i camion, con quegli oggetti antipatici che incontriamo molto spesso, anzi continuamente, ma che sono molto utili perché in fondo trasportano tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi il trasporto con i mezzi industriali è un male necessario. Sì, indubbiamente è un indice di vitalità di un'economia. Forse questo non è uno dei periodi migliori anche in questo ambito. C'è qualche segno di difficoltà, non solo in Italia. No. È proprio così. L'Italia soffre più di altri paesi in Europa. Ha ragione, noi misuriamo il PIL, lo misuriamo con i camion. Ecco, ma il camion ci arriveremo magari dopo, parlando anche delle politiche del trasporto, delle politiche delle strade. Io inizierei, come poi logica di questi incontri, un po' dalla sua vita. Lei non è nato come camionista, tra virgolette. Toscano, mi sembra, di origine. Sì, sono toscano e ho studiato a Pisa e... mi piace ricordarlo, continuo a sentirmi toscano. Mi piacciono alcuni lati della toscanità, una certa trasparenza, direi, che talvolta magari sfocia anche in comportamenti esagerati, ma credo che sia una caratteristica utile, specialmente in questi tempi. Cioè, i toscani poi sanno essere vivaci, dicono le cose come stanno, sì, senza troppi peli sulla lingua. Cioè, sono persone con cui è anche facile e piacevole parlare, ma c'è anche un po' di conflitto, per esempio, tra Pisa e Livorno. Oh. Assolutamente, è la regione dei campanili naturalmente, quindi il conflitto fa parte, però ripeto, il tema della schiettezza che poi è trasparenza, io credo che sia interessante specialmente nella nostra epoca. Ecco, lei ha studiato appunto a Pisa e si è laureato in ingegneria chimica, come mai? È una grande passione, ingegneria, fin da ragazzo la matematica era la mia passione e poi la chimica si è inserita perché avevo il padre farmacista, il nonno farmacista, quindi ho visto sempre queste boccette, queste sostanze chimiche girare e poi direi che anche in quegli anni la chimica italiana parlava parecchio, quindi da ragazzo mi sembrava un orizzonte interessante. E quindi anche la ricerca nel settore della chimica, ma anche la ricerca, mi sembra, in un campo medico. Sì, sì, sì, io in quegli anni iniziava, almeno in Italia, diciamo, la ricerca nell'ambito di quel perimetro che poi oggi si chiama un po' la biomedicina, quindi materiali per applicazioni mediche. Infatti io mi laureai con una tesi sullo sviluppo di valvole cardiache artificiali, quindi la tesi l'ho fatta quasi in sala operatoria. Valvole cardiache artificiali, quindi per salvare la vita delle persone, erano momenti in cui era una tecnologia anche all'avanguardia in questo senso. Come si trova l'Italia in questo campo di ricerca, così come in altri campi di ricerca? Ma devo dire, oggi sono solo ricordi perché, come dicevamo, mi occupo di altro, ma all'epoca sicuramente c'erano gli americani e però c'era anche la Sorin, questa fantastica realtà italiana che poi è diventata grande, che effettivamente avevano qualcosa da dire. Il CNR, nel quale io sono stato per un pochettino di tempo come ricercatore, faticava, naturalmente non c'erano fondi, nulla di nuovo, insomma, per gli italiani conosciamo bene questa situazione, però c'erano delle menti brillanti. Non so come la storia sia andata avanti, ma credo che la ricerca italiana in questo campo, nella robotica per esempio, negli arti artificiali, c'è la scuola Sant'Anna di Pisa che sta facendo delle ottime cose, ogni tanto mi diverto, spigolo un po' su internet per vedere che cosa stanno combinando i miei ex colleghi e credo che possiamo, sia un qualche cosa di cui possiamo essere orgogliosi. Quindi lei poi ha cambiato vita, è passato dalla ricerca, dal fatto di essere ricercatore al fatto di essere manager, dalla ricerca appunto su un settore molto specifico è diventato un esperto di marketing. Poi con una cosa un po' curiosa forse, è passato dal CNR, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, all'NCR, che è un'altra cosa completamente diversa. È vero, è incredibile, sì, è veramente anagrammando. Sono passato all'NCR, in quegli anni naturalmente l'informatica la faceva da padrona, io volevo occuparmi di marketing e di area commerciale, volevo fare il manager, mi ero immaginato questa cosa e anzi appena mi laureai ricevetti un paio di offerte, all'epoca succedeva, oggi credo molto di meno, sia dall'ENI che dalla ESSO che mi volevano assumere come ingegnere di processo. E poi però io avevo in testa un'altra cosa, volevo fare questo manager che era un po' un sogno, lo leggevo sui giornali, la gestione dell'impresa mi sembrava un tema affascinante e quindi dovevo cercare qualcuno che offriva possibilità nell'area commerciale. Era l'NCR per vendere computer. Quindi abbandonando anche la Toscana? Abbandonando la Toscana, quindi Milano naturalmente, parecchi viaggi un po' in giro anche per l'Europa. Sì, Milano, ma è stata una grande scoperta, insomma Milano naturalmente anche in quegli anni era estremamente vivace, quindi sì, l'informatica e naturalmente quindi ho cavalcato un po' l'onda dell'informatica e sono stati anni fantastici. E poi da una multinazionale informatica a una multinazionale italiana però, la Fiat nel campo questa sì. Volta diciamo definitivo, perché anche se per ora nulla poi è definitivo nella vita, è nel campo appunto dei veicoli commerciali, immediatamente. Sì, andai a finire in Fiat perché all'epoca la Fiat voleva prelevare, stava cercando di portare, di prendere delle risorse, delle persone dal mondo dell'informatica appunto per portarsele in azienda e portare un po' di aria fresca, ecco questo era un po' lo spirito, infatti entrai con varie altre persone. Io andai in Fiat, devo essere sincero, non perché mi attirassero le autovetture, i camion o le cose con le ruote, ma subivo il fascino in quegli anni dell'avvocato Agnelli. Erano gli anni 90? Sì, erano gli anni 90, leggevo tutto, mi piaceva questa personalità, diciamo l'idea di poter lavorare per lui. Ha avuto un effetto calamita, sì. Sì. Quindi poi un'azienda italiana, insomma, ma devo dire che ha giocato molto, nel mio caso, veramente la personalità di questo straordinario. Sì, erano anni difficili, il 92 era un anno peraltro di crisi importante dal punto di vista anche finanziario, di crisi per l'Italia, da cui peraltro ne è uscita molto bene, con qualche difficoltà indubbiamente, anni però in cui c'era appunto un orgoglio nazionale, una volontà anche di rappresentare la capacità italiana nel mondo, in questo forse la Fiat poteva essere un emblema, era sì, un emblema. Sì, assolutamente, ed è un tema ricorrente, molto attuale peraltro. Noi quando siamo in giro per il mondo, specialmente quando lavori in un'azienda internazionale, multinazionale, ti confronti continuamente con colleghi stranieri e ti porti sulle spalle un po' tutto il peso o il bello del paese che rappresenti. E quindi noi abbiamo sempre, soffriamo di questa immagine del paese, ti viene voglia veramente di cercare un riscatto per te, per il paese, per tutto quello che ci sta dietro, perché capisci che non è giusto. Ecco, concludiamo questa prima parte del programma proprio guardando appunto alla sua vita professionale. Un altro passo è stato andare dalla Fiat alla Mercedes, più per andare via dalla Fiat o perché richiamato da qualche tentazione tedesca? Ma un pochettino tutte e due forse, devo essere sincero, in Fiat ho trovato punti di forza, ho ancora tantissimi amici, la dimensione umana mi ha assolutamente convinto, sul piano più professionale diciamo del prodotto diciamo ho sofferto e naturalmente quando capitò questa opportunità la Mercedes che voleva così ricreare tutta il suo management nell'area dei veicoli commerciale e industriale in Italia e mi offrì questa posizione, diciamo cedetti. Era irresistibile. E poi un ultimo passo del 2004 in Volvo, la parte veicoli commerciali, che è la parte che è rimasta svedese. Sì, è il cuore, il core business, come si dice, del nostro gruppo. Noi, il nostro gruppo, per strada si vedono tante auto Volvo con il marchio Volvo, ma quella parte della Volvo è stata ceduta molti anni fa, la parte autovetture, prima il gruppo Ford e poi recentemente Ford l'ha ceduta al gruppo Geely cinese, quindi diciamo abbiamo in comune solo il marchio, ma non abbiamo niente. Incontri. Ancora con le note della strada di Nino Rota, dal film di Fellini, riprendiamo il nostro incontro di oggi in cui di strada si parla molto, perché abbiamo con noi Marco Lazzoni, ancora buongiorno a Marco Lazzoni, amministratore delegato di Volvo Italia, controllata italiana del gruppo svedese Volvo, la parte che è rimasta svedese, che è quella che produce veicoli commerciali. La parte italiana è una parte importante comunque. L'Italia come mercato, dottor Lazzoni, come si trova nell'ambito dei mercati mondiali di questo settore? Ma diciamo l'Italia è stato un grande mercato, tende ad essere un mercato in diminuzione, ma rimane uno dei grandi mercati europei certamente. Parlando di mondo, i paesi emergenti stanno crescendo a velocità che, come posso dire, oscurano velocemente i nostri numeri, quindi il Brasile, l'Asia come la Cina, l'India, e quindi diciamo i parchi circolanti stanno crescendo in maniera esponenziale. La stessa Europa dell'Est sta crescendo moltissimo, questo un po' a discapito appunto per esempio dell'Italia. Molte aziende italiane si stanno rilocalizzando in paesi dell'Est Europa, quindi diciamo le targhe, poi lo vediamo anche sulle strade, sulle nostre strade sempre di più vediamo camion con targhe straniere, molto spesso dietro ci sono azionisti italiani. Ecco, stiamo parlando, molti ci ascolteranno sulle strade, magari si lamentano perché i camion invadono un po' tanto, ma in Italia c'è una politica che ha sempre un po' privilegiato il mezzo stradale rispetto ad altri paesi, dove invece le ferrovie hanno, o anche le vie marittime hanno avuto un maggiore sviluppo, però creano un po' di ingorgo anche i camion. Non c'è dubbio, sono un elemento molto ingombrante e diciamo il problema dell'Italia è che ha un sistema di trasporto che è assolutamente sbilanciato, troppo sbilanciato verso quella che si chiama la gomma, il trasporto su gomma, appunto su camion. In altri paesi sono stati fatti passi in avanti, un po' anche il territorio naturalmente ha un'influenza molto importante. Noi non abbiamo, per esempio in Germania ci sono grandi fiumi, in altri paesi è stata costruita una rete di ferrovie potente che in parte riesce a supplire al trasporto, almeno sulle lunghe tratte. In Italia questo manca un po', e poi l'Italia è lunga, stretta, ci sono le certo. montagne, insomma, quindi effettivamente è difficile poter dare un numero, ma almeno l'80%, probabilmente di più, delle merci viaggia su gomma. Ecco, negli altri paesi è anche diffuso il mettere i camion sui treni, in Italia è ancora molto poco, si fa forse per i trasporti al di là della frontiera, per quelli verso la Germania, non per quelli interni. Sì, sostanzialmente interessa maggiormente il traffico internazionale, effettivamente sul territorio. In questo momento si sta cercando di fare qualcosa, per la verità da qualche anno. Avrete sentito parlare dell'autostrada del mare, per esempio imbarcare i camion a Genova per sbarcarli poi in Sicilia e viceversa, ecco. E quindi ci sono stati tentativi, ma il problema vero è che stiamo parlando di infrastrutture. Quando parliamo di infrastrutture servono grandi progetti, servono molti anni e recuperare il tempo perduto spesso è quasi impossibile. Ecco, i camion, come lei, sono 20 anni che si occupa di camion, come sono cambiati negli ultimi 20 anni? Ormai una cabina di guida di un camion è una metà strada tra una berlina di lusso e un aereo. Assolutamente, direi l'interno di uno di questi mezzi è come una vettura di lusso, di extra lusso addirittura. Ci sono decine e decine di centraline elettroniche, comfort di qualunque genere, ma io credo che gli elementi sui quali mi piace sottolineare un pochettino lo sviluppo che è stato fatto è in fatto di sicurezza e in fatto di naturalmente inquinamento. Sull'inquinamento siamo in prossimità dell'Euro 6 quasi, diciamo, inizio gennaio di 2014, ma comunque diciamo abbiamo avuto un'agenda dall'Europa molto stringente e devo dire che la tecnologia con fatica riesce a raggiungere queste scadenze, quindi oggi i camion veramente, e anche le autovetture naturalmente più recenti, hanno dei consumi bassissimi, molto più bassi che nel passato, e emissioni del 90% più basso. Si vedono sempre di meno quelle cortine fumogene che ogni tanto accompagnavano i camion, qualche camion residui bellici forse. Assolutamente, il dramma è che ce ne sono ancora troppi in giro e su questo credo che manchi un po' l'intervento del legislatore, che dovrebbe avere una mano un pochettino più decisa nel togliere di circolazione mezzi veramente obsoleti. Ecco. Peraltro l'ambiente è molto importante, non si discute, ma il lato forse più importante, di cui ancora si parla relativamente poco, è quello della sicurezza. Perché naturalmente tutti quando siamo per strada abbiamo paura, io stesso quando supero un camion ho un certo timore, e quindi diciamo, lo sforzo dei costruttori è orientato a strumentare questi mezzi con apparati elettronici fondamentalmente che riescono a supplire e a dare una mano all'autista se si addormenta lo sveglia, se sta sbandando glielo segnala, se prende una curva ad alta velocità gli frena il camion, se ha davanti un ostacolo frena lui. Insomma, stiamo cercando di fare un camion che guida da solo. E questo però è anche un po' un rischio, perché rischia di, appunto, di togliere un po' di responsabilità all'autista. Dice, beh, tanto ci pensa lui. Il rovescio della medaglia potrebbe anche essere quello. Ma francamente sono tutti sistemi che richiedono, continuano a richiedere un intervento dell'autista, nel senso che l'elettronica fa un primo intervento e poi affida, continua a affidare all'autista il completamento della manovra. Quindi diciamo che ha qualche occhio in più fondamentalmente, ha delle velocità di risposta immediate, perché naturalmente questi apparati sono velocissimi, però poi deve decidere lui cosa fare. A che ordine di grandezza di prezzo è un camion? Ecco, certo ci sono vari modelli, non si può dire. Certo, cioè, ma guardi, a peso costa molto meno di una vettura, insomma, perché costa un camion medio, può costare 80-90 mila euro. Ecco, qual è il camion più costoso che lei ha venduto, quello più accessoriato, più complicato? Abbiamo dei camion per i grandi appassionati che sono degli aerei senza ali e quindi hanno dei costi straordinari. Noi abbiamo un camion che ha una potenza di 750 cavalli, insomma, pensi un po' di che cosa stiamo parlando. Quindi i costi possono raddoppiare. Quindi se arriva ai 200.000 euro, se uno vuole... Dipende, poi naturalmente ci sono le attrezzature, quando ci sono attrezzature particolari i camion possono costare centinaia di migliaia di euro, quindi è un range di prezzo molto ampio. Ecco, quindi tanti accessori, tante misure per la sicurezza, un camion ormai può servire a tante cose, ovviamente a trasportare, però gli usi che si possono fare all'interno, appunto, delle capacità sono varie. Avete dei settori specializzati su questo fronte, una ricerca specializzata per offrire delle risposte a quello che chiede il mercato? Beh, direi di sì. Diciamo, oggi i costruttori cercano sempre di più di segmentare, come si dice, il mercato, di capire quali sono le specifiche esigenze, e quindi laddove serve la leggerezza si dà leggerezza, dove serve la potenza si dà la potenza, dov'è il comfort per la distribuzione urbana, per esempio si va verso veicoli più piccoli, si va verso veicoli alimentati ibridi, per esempio abbiamo sviluppato un veicolo ibrido che consente in città naturalmente di viaggiare parzialmente anche con l'energia elettrica o le batterie. Ecco, direi che assolutamente non c'è un camion, oggi c'è un grande... Ci avviamo alla conclusione, guardiamo un attimo alla sua esperienza. Lei è stato in fondo in tre grandi gruppi, uno italiano, uno tedesco, uno svedese. Quali sono le differenze maggiori proprio a livello di vita all'interno dell'azienda, di gestione imprenditoriale? Sono rilevanti. Devo dire che hanno avuto, anche per quanto mi riguarda, sono state tre fasi storiche un po' diverse. Direi l'esperienza italiana era un'esperienza che è anche più un pochettino più remota, erano anche tempi diversi, voglio dire, quindi il clima era abbastanza formale, abbastanza gerarchico, insomma. Un po' burocratico anche. Ma forse un pochino anche burocratico, diciamo, poi noi italiani purtroppo questo vizio ce l'abbiamo ogni tanto. I tedeschi, ecco, c'è molto da imparare sicuramente dalle aziende tedesche, sono estremamente strutturate, sono molto disciplinate, tutto luccica, come si può dire, però anche quelle hanno un forte formalismo, la relazione è sempre con il lei a livello manageriale, voglio dire anche un po' di burocrazia, cioè anche là. Direi che a tratti un po' arrogante. Per arrivare a dire che in fondo le aziende svedesi hanno maggiormente un volto umano? Sì, assolutamente. Ora, naturalmente io in questo momento sono in un'azienda svedese, quindi il cappello in questo momento svedese potrebbe sembrare quasi una piaggeria, ma in realtà non lo è. Io ho scoperto la Svezia e la cultura svedese quando sono entrato in Volvo e me ne sono francamente innamorato, perché è una cultura estremamente informale, molto trasparente, molto, molto chiara, diretta, umana sicuramente, ha doti forti di disciplina. si vive molto bene. Io, ecco, il mio tempo di ambientamento in Volvo è stato di credo 48 ore, in Fiat è stato di qualche mese e in Mercedes di qualche settimana, ecco, per dare un ordine di grandezza. Quindi vede il suo futuro magari a Stoccolma? Potrebbe essere. Grazie a Marco Lazzoni, amministratore delegato di Volvo Italia, grazie a quanti ci hanno ascoltato, così come ringrazio Luca Cremonese in redazione e Peter Bascapè in regia. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.